Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Che cosa succede quando invece di usare AutoCAD banalmente, quindi una sorta di tecnigrafo digitale, utilizzo software di, come BIM, Building Information Modeling, che cambiano completamente il modo di procedere, perché io progetto direttamente in 3D e ogni singolo pezzo è un pezzo che contiene al suo interno le informazioni, e non solo, ma non c'è soluzione di continuità dall'ideazione del progetto fino alla stampa del modellino che stampo al Politecnico o come professionista nel mio studio, fino al from file to factory, alla stampa del componente edilizio anche in cantiere. Cioè, io mi aspetto che fra non troppi anni, probabilmente anche in cantiere, ci saranno delle stampanti 3D, non per stampare probabilmente tutta la casa, questo è un po' futuribile, ma probabilmente per stampare dei singoli componenti edilizi, dei singoli pezzi che vado poi a montare uno sull'altro, che vado a, come dire, utilizzare come fossero dei pezzi prefabbricati magari, ma con la differenza che sono just in time e on demand, quindi non ho stoccaggio, ho la massima libertà delle forme, ho la massima, come dire, l'unico vincolo è la creatività, l'unico vincolo è lo studio dei comportamenti meccanici di questi materiali. Consumo meno materiale, non ho sfridi, non ho tagli, e non ho casseri, non ho stampi, quindi ogni componente, ogni singolo pezzo di un edificio può essere progettato su misura, realizzato su misura allo stesso costo di un pezzo normale. Buonasera da Maurizio Melis. Quella che avete sentito era la voce di Marco Muscogiuri, architetto docente del Politecnico di Milano, raccolta dalla nostra Anna Marino lo scorso 8 maggio nel corso di un convegno che si è svolto qui al Sole sulla Digital Manufacturing, organizzato da PricewaterhouseCoopers e Confartigianato Imprese. Il tema della fabbricazione digitale, di cui la stampa 3D rappresenta ormai il simbolo, pur non essendo l'unico aspetto tecnologico rilevante, è insieme una grande opportunità e un rischio per l'impresa italiana. In parte questo ragionamento è vero per ogni innovazione tecnologica significativa, chi non la cavalca la subisce, ma questa prospettiva della digital manufacturing ha il pregio di invertire la tendenza rispetto al gigantismo che per decenni è stato un leitmotiv dello sviluppo industriale. E questo può essere particolarmente importante per il tessuto industriale italiano che, insomma, come sappiamo, è caratterizzato da una larga maggioranza di imprese medio-piccole. Il rischio, d'altronde, sta proprio nel fatto che le piccole dimensioni non favoriscono l'accesso all'innovazione. E qui una funzione importante può essere svolta dalle associazioni di categoria, come ci spiega nella prossima intervista sempre di Anna Marino il direttore generale della Confartigianato di Varese, Mauro Colombo, Confartigianato impegnata dal 2013 sul fronte della digital manufacturing con il progetto Faberlab. Sentiamo. Come mai l'idea di creare un progetto di questo tipo sul vostro territorio? È un'esperienza che sentiamo di dover fare proseguendo quella che già abbiamo avviato da un paio d'anni ormai sul territorio varese, che è proprio quella, è stata proprio quella di avvicinarci sul tema della fabbricazione digitale con un'officina digitale, quindi un luogo fisico dove realizziamo attività di informazione, ma soprattutto abbiamo, con la tecnologia che abbiamo acquisito, dato possibilità alle aziende di piccole dimensioni di avviare dei progetti di prototipazione, di costruzione di oggetti con la tecnica della stampa 3D. E questa attività, che ha avuto un ottimo ritorno nella sua fase iniziale, ci ha portato proprio a aumentare la consapevolezza da parte nostra di quanto fosse importante approfondire lo studio delle soluzioni tecnologiche che questa tecnologia ci permette di sviluppare e soprattutto in quale direzione avviare l'investimento, proprio con l'obiettivo di assistere meglio e quanto più possibile le aziende di piccola dimensione in questo processo. Appunto, i numeri di questo progetto, aziende, investimento e soprattutto la possibilità che avete visto di aumentare anche, come dire, il fatturato di queste aziende. Allora, noi siamo partiti in questi due anni che consideriamo la prima fase, non dico sperimentale, ma di approfondimento, coinvolgendo più di un centinaio di aziende nell'attività progettuale. Sono qualche migliaio le aziende che con attività di formazione e divulgazione abbiamo coinvolto nello stesso tempo in questo periodo. Quel centinaio di aziende sono aziende che hanno in parte acquisito e si sono rese autonome e indipendenti nell'utilizzo di questa tecnologia o in parte ancora assistiamo nell'attività di prototipazione. I vantaggi sono ovviamente diversi da caso a caso, ma anche da un punto di vista economico significativo, perché questa tecnologia consente anche per una piccola azienda di ottimizzare la fase di progettazione, velocizzare anche tutta l'attività di validazione con il cliente dei prototipi che li sottopongono, ma anche poi di proporre delle soluzioni che con le tecniche tradizionali spesso non erano realizzabili. Bene, torniamo in studio solo per salutarci, darci appuntamento a domani sera sempre alle 20:50. Da Maurizio Melis, buona continuazione su Radio 24 e buona serata.